Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questi al mondo questo. Non ce n'è. Niente, scusatemi, era dall'inizio del tour che volevo farlo, non ho la voce di Dino Zandegu, ma ci provo lo stesso. Però dai, non male, devo dire, eh? Te la cavi? Sì, sì, sì, sì. Sì, ecco, magari quindi l'anno prossimo facciamo non solo le grandi classiche del ciclismo, ma anche il Festival di Sanremo. Perché no? Il nostro controcanto. Potrebbe essere la volta buona che coinvolgiamo davvero Dino Zandegu. Sì. Fatto sta che torniamo sul Tour de France, che è l'attualità più stretta, ci torniamo per l'ultima volta, o forse no. Sicuramente non per l'ultima puntata di Radio Bidon, ma per l'ultima relativa a questo Tour de France. Dall'altra parte dell'internet, l'avete già sentito, c'è Leonardo Piccione. Buongiorno. In giro come degli spettri per l'etere, per l'internet, per l'iperuranio, ci sono gli altri collaboratori di Radio Bidon che interverranno a un certo punto, a un certo punto sì, a un certo punto no, ma insomma riconoscerete le loro voci. Sono voci che entreranno e usciranno dalla nostra radio, non importa, tanto noi navighiamo a vista nella disperazione perché il Tour de France è finito, non sappiamo più come riempire le nostre giornate, o forse sì, adesso tra poco lo scopriremo, nel frattempo ripartiamo dal punto a cui ci siamo fermati qualche giorno fa, un paio di giorni fa, ovvero il Tour de France 2016, e ragioniamo su com'è stato questo tour. Sì, beh, intanto bentornato, Kautz. La scorsa volta abbiamo dovuto improvvisare senza di te. Tu eri in Francia, com'è andata? Dici un po', facci un riassunto velocissimo della tua trasferta francese. È andata umida, essenzialmente è andata umida, l'avrete capito anche dalla televisione, la quantità di acqua che ci siamo presi. Io fortunatamente ne ho presa un po' meno degli altri, però insomma, la pioggia è stato sicuramente l'elemento distintivo, ciò nonostante non ha allontanato il pubblico del tour, non ha allontanato la passione che il tour riesce a coinvolgere, è una corsa veramente unica da questo punto di vista, non soltanto della passione ma delle dimensioni che rappresenta. Non so, anche tu Leo ci sei stato l'anno scorso, puoi ben ricordarti quello che significa essere sulla strada del Tour de France? Sì, io fortunatamente l'anno scorso trovai una giornata più clemente, faceva caldissimo, anzi sull'Alpe d'Huez. Spero che tu fossi al coperto, eri in una ammiraglia, giusto? Quindi al caldo. Sì, io ero al coperto in un'auto che precedeva il gruppo, per cui sì, sono stato abbastanza all'asciutto durante la tappa, è stato molto più umido l'arrivo. D'altronde, se non ci si bagna quando si va a vedere il ciclismo, quando mai bisogna bagnarsi nella vita? No, ma infatti, ma una delle cose belle di andare a vedere il ciclismo, specialmente nelle tappe di montagna, è che bisogna lasciare qualcosa, quindi o arrivarci in bicicletta e far fatica, o bagnarsi, comunque bisogna lasciare qualcosa di sé sul percorso, esattamente come fanno i ciclisti. Questa è una delle cose fondamentali, secondo me, della bellezza del ciclismo seguito sulla strada. E qualcosa questo tour ce l'ha lasciato sicuramente, lo ha lasciato a noi, lo ha lasciato ai suoi protagonisti, innanzitutto a quelli che si dice siano i suoi protagonisti, ovvero i corridori, e direi che il copione ormai prestabilito di Radio Bidon al Tour de France prevede che iniziamo con l'osservatorio di quello strumento diabolico che si chiama Twitter, di cui io stesso sono un maledetto dipendente, e quindi chiedo al nostro osservatore principale di Twitter, ovvero Leonardo Piccione, cosa ci hanno detto i corridori in questo finale di Tour de France. Sì, nei giorni successivi alla fine del tour ci sarebbe da scrivere un libro con i tweet che abbiamo visto e letto. Ne ho selezionati giusto un paio significativi. Ovviamente non possiamo dimenticarci di Vegard Brain, nostro che ci ha accompagnati per tutte le puntate di Radio Bidon, che ha finalmente avuto il suo waffle alla fine della corsa, ha potuto mangiare un waffle e soprattutto, questa è una notizia che ci riguarda e ci interessa, ha detto che visto il successo della sua rubrica, del suo diario giornaliero del tour, la riproporrà per ogni corsa che farà. Quindi la prossima volta che lo vedremo in gara dovrebbe essere l'Arctic Race, l'ha scritto lui in un tweet, e riproporrà anche in quell'occasione il suo diario post-tappa che ci ha fatto così appassionare durante il tour. Grande, grande Vegard Brain. Io sono andato ad aspettarlo al bus della Fortuna alla partenza del Tour de France, purtroppo non è uscito nel momento in cui ero lì, mi ero portato anche lo stesso registratore da cui vi sto parlando in questo momento per registrare i cori dei tifosi norvegesi di cui lui ci aveva parlato dal suo cesso. Purtroppo, come non c'era Vegard, non c'erano i tifosi norvegesi, che immagino peccato. Fossero piazzati da un'altra parte, ma ciò non toglie che tifiamo per entrambi. Sì, tra le altre cose allora mi sono segnato due tweet di Simon Geschke, che è simpatico sempre, a partire dal suo aspetto, ma anche per quello che dice e fa, e lui ha scritto le cose che gli mancheranno e quelle che invece non gli mancheranno del tour. Cominciamo da quelle che non gli mancheranno. Allora, non gli mancherà andare in bicicletta, innanzitutto, mangiare quando non è affamato, ascoltare l'olandese 24 ore al giorno, perché lui corre per una squadra olandese, correre sotto la pioggia, il dolore e alla fine, per concludere ancora, andare in bicicletta tutto il tempo. Quindi queste cose non gli mancheranno. Cosa invece gli mancherà? Gli mancherà qualcuno che gli lava i vestiti, il sostegno e i cori da parte di qualche fan, i massaggi gratis e le viste che si hanno durante le tappe di montagna. Quindi, e queste mancheranno anche a noi, dobbiamo aggiungere, quindi rimandiamo anche Simon alla prossima occasione per divertirci insieme a lui un altro po'. E a te cosa mancherà, Leo? A me mancherà il divano, mancherà la TV, mancheranno le voci e i suoni che si sentono in sottofondo durante le tappe, mancheranno anche le ore un po' di noia. Adesso parleremo un po' della noia di questo tour perché fa parte del gioco, ma adesso ne parleremo anche di questo. Ecco, la noia mancherà, ma non ci mancherà, secondo me, anche se a leggere in giro in rete i vari osservatori in rete o su altri media, sembra che questo sia un po' l'elemento portante di questo Tour de France, no? Si dibatte addirittura se sia il più noioso di sempre o meno. Io non lo so, io ne ho visti 25 di Tour, per cui è un po' poco per ragionare sul sempre e faccio molta, molta fatica a rapportarmi con graduatorie di così ampio respiro temporale. Di certo trovo sia stato un tour abbastanza noioso, mi sembra che invece a te, Leo, ti abbia annoiato un po' meno, no? Allora, no, devo essere sincero, obiettivamente in alcuni pomeriggi sono stati molto lunghi. A me non è piaciuto e non piace un certo tipo di giudizio assoluto e definitivo, nel senso il tour peggiore della storia, oppure prima di dare le pagelle tecniche dovremmo dire quanto ci siamo annoiati, questa è la cosa più importante. No, non sono d'accordo, nel senso che intanto nonostante la noia, nonostante sia successo poco, comunque siamo riusciti, quantomeno noi, tiriamocela un po', a tirar fuori delle storie interessanti ogni giorno, perché il ciclismo ha questo di bello, che comunque ti tira fuori, ti mette sul piatto delle storie da raccontare sempre e comunque, e questo è un dato di fatto. E poi c'è da dire anche che la noia è un po' una questione ciclica, non è il Tour 2016 la prima corsa a tappe in cui si parla di noia. Guarda, sono andato a riprendermi un racconto di Indro Montanelli del 1948, del Giro del 48, in cui lui esaltava il gregario Menon, che era partito in fuga da solo, una fuga ovviamente non arrivata, ma lo esaltava perché era stato anarchico. Ti leggo proprio il passaggio. Gran ventura per l'umanità è che qualche anarchico sopravviva ancora ai piani strategici che ci affliggono. Gran ventura per il Giro che agli ordini tirannici di Bartali ci siano ancora dei Menon riottosi. Potrebbe essere stato scritto 3 giorni fa, sostituendo Bartali con Froome, è la stessa cosa, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di qualcosa che nel ciclismo esiste da sempre. Ora, non è che quando c'erano Coppi e Bartali tutti i giorni si andasse in fuga o succedessero cose incredibili. Quindi, primo punto, secondo me, è ricordiamoci, teniamo presente che la noia fa parte anche proprio della storia del ciclismo. Il secondo punto è che questo ciclismo è un ciclismo diverso, e ovviamente sono d'accordo con te e con chi dice che qualcosa bisogna pur pensarla per riadattare questo nuovo ciclismo alle esigenze anche dello spettacolo che vanno esaudite, vanno ascoltate in un certo senso. Però rendiamoci conto che è uno sport che sta vivendo una fase di transizione molto importante. Negli ultimi 10 anni sono successe delle cose clamorose, è cambiato in un modo evidente questo sport, non possiamo far finta di nulla. Io dico, diamogli il tempo di trovare un assetto nuovo, definitivo, che ovviamente richiederà del tempo. In questo tempo è probabile che ancora qualche tour possa essere noioso, magari qualche tour che vincerà ancora Froome, ma se questo è il prezzo da pagare per avere uno sport complessivamente più bello, più credibile soprattutto, io sono disposto a pagare questo prezzo, ovviamente non all'infinito. Parliamone, discutiamone, che ne discuta chi è più preparato di me o di noi, però ecco, non metterei questo argomento come il primo all'ordine del giorno prima dei racconti, delle storie che ci sono e ci saranno per fortuna sempre anche in questo tour. Indubbiamente, nell'attesa di trovare un antidoto alla noia, perché poi la noia annoia, come si dice sempre, andiamo a vedere quali sono i momenti che ci ricorderemo, che non ci hanno di certo annoiato di questo Tour de France. Io ho ragionato a lungo, ho provato a chiederlo a tutte le voci etere e lo chiedo anche alle voci presenti, quale sia il momento che ci portiamo dietro di questo Tour de France, che sia o non sia noioso sicuramente qualcosa ce lo lascia, almeno un ricordo più di ogni altro ce lo lascia. Per correttezza parto io, anche perché penso di essere quello che va più indietro in assoluto nella scaletta scaletta temporale di questo tour, nel senso che io torno direttamente alla prima tappa. Se c'è una cosa che voglio ricordarmi e penso che mi ricorderò di questo tour è la vittoria di Cavendish a Utah Beach. Perché? Perché beh, non ho mai nascosto la mia ammirazione verso un talento qual è Mark Cavendish, che ormai anche i numeri dicono essere veramente un gigante nella storia dei velocisti, almeno non dico nella storia del ciclismo. Sembrava si fosse eclissato come corridore, sembrava fosse stato superato dalle giovani leve, invece è ancora qui, è ripartito da una squadra più piccola e si è trovato a vincere quella prima tappa che boh, magari era anche figlia di una caduta, figlia di un caso. Poi la storia del tour ha dimostrato che era davvero il velocista più forte. Si è trovato per la prima volta a vestire la maglia gialla, sembra incredibile che fosse la prima volta, e io ho vissuto proprio l'emozione del vedere una carriera completarsi, un corridore che è sicuramente unico e che in quell'occasione ha chiuso il cerchio, ha ottenuto tutto quello che doveva ottenere, qualcosa ancora gli resta, ne parliamo poi più tardi per altri palcoscenici, ma insomma, il mio momento è quello ed è Mark Cavendish. Non è poco, non è un momento a caso. Io vado subito col mio, ce ne sarebbero due in realtà, però ne scelgo uno ed è, sarò ripetitivo, però io c'ho ancora in testa e negli occhi e nel cuore la fuga di Tony Martin e Julian Alaphilippe. È stato un momento incredibile, un momento che è durato qualche ora di questa lezione di sport e di vita che Tony Martin ha dato al giovane francese Alaphilippe. E non solo a lui, in un certo senso anche a noi che l'abbiamo visto così generoso, così convinto e così fratello maggiore, padre, amico. Ripeto, finché il ciclismo continuerà in un tour così noioso come viene dipinto a darci, a raccontarci queste storie qui, io continuerò a guardarlo e ad innamorarmi di questo sport. Già, perché i momenti che contano non sono per forza legati a delle vittorie, in alcuni casi potrebbero essere legati addirittura a delle sconfitte anche nette. Io penso a una più delle altre, perché introduco così il nostro prossimo inviato, il nostro inviato sulla terra sarda, Angelo Trofa, che chiaramente ha seguito con particolare attenzione il tour di uno dei protagonisti. Salve ragazzi e bentrovati! Dunque, se dovessi proprio scegliere un elemento, un'immagine di questo Tour de France che mi ha particolarmente colpito, io rispondo senza ombra di dubbio la crisi di Fabio Aru, perché era qualcosa che non mi aspettavo, mi ha colpito. Pensavo che Aru continuasse i suoi attacchi, continuasse quel tipo di condotta di gara, certo magari in maniera non violentissima, con la stessa energia del migliore Aru, però che continuasse su quella scia lì. Invece è entrato in una crisi, diciamo, improvvisa e violentissima. Però circa questo vorrei fare una precisazione, vorrei fare una piccola osservazione, ecco. Da diverse parti si sente dire che è stato un Tour de France non coraggiosissimo, non molto fantasioso, non molto divertente, si usa la parola spettacolare. Però, ecco, se noi è quello che vogliamo, cioè la spettacolarità, cioè con i corridori che vanno all'attacco, che ci provano e si inventano qualcosa, dobbiamo, secondo me, essere pronti anche a vedere le crisi. Perché non credo che un corridore non va all'attacco così per ignavia generica, non ci va perché effettivamente il rischio effettivo è quello di entrare in crisi. Ovviamente Fabio Aru è entrato in crisi e magari le motivazioni della crisi sono tutt'altre, però nel momento in cui qualcuno, diciamo, prova a inventare qualcosa, ha come possibile conseguenza il fallimento. Quindi, dovendo tracciare infine un resoconto del tour di Fabio Aru, dico che dal punto di vista dei risultati è stata al di sotto delle aspettative. Dal punto di vista dell'atteggiamento, invece, a me è sembrato positivo. Ecco, la sua combattività è venuta comunque fuori. Ecco, dopo Angelo Trofa sentiamo il nostro altro inviato abituale, che è il nostro invadente Francesco Bozzi, ma prima di sentire qual è il momento che ricorda lui del Tour de France, io, parlando di invadente, ho il sentore chiaro che Leonardo debba cospargersi il capo di cenere per aver sbagliato qualche interpretazione di quello che ci ha raccontato il nostro invadente. Gli ho dato del cialtrone più di una volta, specialmente dopo l'ultima puntata dell'invadente, quando aveva pronosticato che Quintana non sarebbe stato selezionato nella Colombia. E vabbè, non è andata proprio così, però il risultato è quello: Quintana non ci sarà alle Olimpiadi, ci sarà proprio Jarlinson Pantano al suo posto, e quindi pubblica ammenda da parte mia, e riconosco al nostro invadente che ci aveva visto giusto, la sua soffiata stavolta non era di terza o quarta mano. Bravo lui. Bravo lui, e sentiamo lui cosa ha visto. Escludendo la banalità del grande attacco di Bardet nella discesa sotto la pioggia nella tappa di Saint-Gervais, direi che il momento più interessante della corsa è stato la tappa, anche questa martoriata dal maltempo, dalla grandine di Arcalis, quando Dumoulin ad Andorra, dopo la fuga, è riuscito a staccare i compagni di fuga per l'appunto, e ha dimostrato di poter vincere anche in salita, e poi si sarebbe ribattuto anche a cronometro, ma ha dato una dimostrazione di forza e anche in prospettiva, secondo me, una bella indicazione per chi pensa che potrebbe diventare un uomo da grandi giri, e potrebbe averlo dimostrato proprio in questa tappa. E perché no, forza Tom, la farfalla finalmente vola anche in salita. Grazie, quindi grazie anche a Francesco per oggi e per tutto quello che ha fatto durante il tour, durante Radio Bidon col suo invadente. Abbiamo scherzato con lui se qualcuno non l'avesse capito e grazie ancora, ci siamo divertiti anche con questo. Il tour è finito, i pomeriggi sono lunghi, più lunghi di quelli che erano fino a 2 giorni fa. Che facciamo nei prossimi giorni? Tu che fai, Gauz? Beh, io mi sono rovinato con le mie mani perché appena uscito dalla maratona che è stato il Tour de France, riparto per un'altra avventura, peraltro ancora più scomoda perché fin qui siamo stati sul divano, adesso mi tocca stare su mezzi un po' più sbilenchi, però venerdì sarò a Gerardsbergen dove si innalza il muro per definizione del ciclismo e non soltanto, da cui partirà la quarta, credo, edizione della Transcontinental Race, ovvero una comodissima gara amatoriale che parte dalle Fiandre e approda in Turchia. Sono, Ah, però. mi sembra, 4.000 km, sto dimostrando tutta la mia impreparazione, ma sto studiando, seguirò alcuni dei partecipanti di questa corsa, passeremo dal Puy du Dôme, passeremo dalle Alpi, dalle Dolomiti, dal Montenegro, Wow. arriveremo, si spera, in Turchia. I miei corridori di riferimento, quelli che seguirò, mi dicono che ci potrebbero mettere 2 settimane. Io impallidisco a sentire questa cifra perché se la facessi io ci metterei probabilmente 6 mesi e stabilirei un nuovo record. Ciononostante, insomma, si finisce qui, si riparte e sarà un'altra avventura che non mancherò di raccontare sulle pagine di Bidon. Io invece, io in realtà prima ho detto che mi mancherà il divano, mi mancherà giusto qualche giorno perché poi dal 5 agosto cominciano le Olimpiadi e quindi sarò di nuovo lì sul ponte di comando. E una delle prime gare sarà proprio il 6, quella in linea maschile. Vogliamo parlarne un attimo? Come la vedi tu? Io la vedo che innanzitutto non la vedrò, come appena spiegato. Ciononostante, la vedo come una corsa che sarà praticamente impossibile da controllare, come sempre capita alle Olimpiadi, perché con squadre di 5 elementi non si riesce certo a tenere chiusa la corsa, cosa che ha infastidito parecchio Chris Froome, che in un'intervista al Guardian ha dichiarato che non capisce questa gara in cui non si possono mettere 8 compagni a tirare per poi scattare nell'ultima salita. Pensa Questo ci un po'. dà anche l'idea della concezione di ciclismo che ha il buon Chris Froome. Grande Chris, complimenti per il tour vinto. E niente, io potrei fare dei pronostici, potrei dire chi tifo, non dico né l'una né l'altra, dico chi auspico che vinca, ovvero Alejandro Valverde, perché sarei veramente felice. Vabbè, la mia simpatia per Valverde non l'ho mai nascosta, ma sarei davvero felice di vedere un corridore che ha fatto la stagione delle classiche, ha fatto il giro ad alto livello, ha fatto il tour ad alto livello. E sta ancora lì e va a giocarsi in Olimpiade. Penso che rispetto alle storture di calendario che vediamo nel ciclismo di oggi, una vittoria di Valverde sarebbe veramente uno spot per un ciclismo che tutti vorremmo. Quindi forza Alejandro. Sì, io sono d'accordo con te, non sul tifo, nel senso che amo Valverde, lo rispetto più che altro e sono convinto che sia tra i favoriti. Bisogna vedere se l'alleanza col compagno di squadra Joachim Rodriguez funzionerà, perché altre volte non sono stati proprio amicissimi, a dire la verità, in nazionale. Però se l'unione di intenti di loro due potrebbe davvero rendere la Spagna la squadra da battere, se già non la è ora. Per quanto riguarda il tifo, ovviamente non posso non tifare per la nostra nazionale, anche perché credo che ci siano concrete possibilità di far bene. Credo che Vincenzo Nibali, per come è uscito dal tour in crescendo, possa essere considerato d'obbligo, di diritto, tra i favoriti. Vediamo Aru se reagirà al colpo psicologico, più che altro dell'ultima tappa nell'ultima tappa in salita del Tour, e dopodiché credo che abbiamo una nazionale che potrà far bene. Sono curioso di vedere tra gli altri, ora non facciamo troppo i tecnici, magari in un altro momento faremo una presentazione più puntuale della corsa, sono molto curioso di vedere se ci sarà e cosa farà in quel caso il Nurzakarin, che proprio oggi leggevo che potrebbe correre, se non con la Russia per i motivi legati alla sua storia di doping precedente da ragazzo, leggevo che ha fatto richiesta per correre da indipendente, una cosa che non sentivo da tempo. Pare che esista la possibilità che lui possa intrufolarsi a Rio da indipendente e correre senza una nazione di riferimento. In quel caso sarebbe forse l'uomo da seguire più degli altri, anche perché anche lui è in un buon momento di forma, è uscito bene dal Tour. Ecco, il dubbio che la fonte di questa notizia sia Francesco Bozzi, il nostro invadente, a questo punto è forte, visto il tipo di notizia e visto il fatto che la rubrica dell'invadente ha dimostrato una teoria scientifica, il cosiddetto assioma di Beppe Conti, che dice che più le spari grosse nella vita, prima o poi una la imbrocchi. Bellissimo. A questo punto parliamo di Olimpiadi, sentiamo cosa dice Francesco Bozzi sulle Olimpiadi che stanno per arrivare. Il percorso delle Olimpiadi è talmente schizofrenico e misto, perché è lungo quanto una classica, ma ha salite da tappone dolomitico e ha anche strappi corti, ma poi si passa a salite lunghe, ripide. Quindi non saprei neanche chi indicare, se gli uomini da grandi classiche o i grandi corridori dei giri. Gli stessi CT delle nazionali sembrano essersi un po' divisi, perché per esempio Cassani si affida a Nibali Aru, mentre la Gran Bretagna, la Spagna non schierano per esempio Contador e Froome, quindi non saprei veramente dove indicare il pronostico, so solo che io la birra in ghiaccio ce l'ho, quindi secondo me ci divertiremo molto. Olimpiadi che oltretutto non si ridurranno solo alla prova maschile su strada, non stiamo qua ad elencare tutte le prove che ci saranno, però chiaramente il ciclismo olimpico è più di questo. Ci sarà una corsa di mountain bike maschile in cui vedremo Peter Sagan, che probabilmente non potrà ottenere grandi risultati, ma stiamo stracerti che ci farà divertire. Qualcosa e la poi, fa. E poi tutta la pista, la BMX, la pista in particolare con due campioni che in qualche modo si riaffacciano in questa trasmissione, ovvero Mark Cavendish e Bradley Wiggins, il mio pupillo Azizulasnia Wang, e poi Anna Merz tra le donne, che addirittura è stata nominata portabandiera dell'Australia, per cui sono delle Olimpiadi che voi che sarete sul divano godetevele, perché sono sicuro che saranno di altissimo livello. Prima, dopo, durante le Olimpiadi anche Bidon avrà qualcosa da offrirvi, da darvi per riempire i pomeriggi, le mattinate, le serate dell'estate. Stiamo lavorando su quello che non sarà una sorpresa, perché qualcuno se lo aspetta già, ma abbiamo qualcosa in forno, pronto per essere sfornato, no Leo? Sì, in realtà speriamo che sarà prima delle Olimpiadi, anzi l'idea è già durante la settimana prossima, nei primi giorni della settimana prossima, proporre il nostro instant book o ebook, come vogliamo chiamarlo. Abbiamo questo progetto che stiamo portando avanti, in realtà stiamo semplicemente, tra virgolette, semplicemente mettendo insieme quello che abbiamo prodotto giorno per giorno seguendo il tour, quindi i nostri racconti post tappa, un po' sistemati, con delle immagini nuove, e in più abbiamo curato una parte aggiuntiva con dei contenuti extra, alcuni più tecnici, alcuni un po' più simpatici e alternativi, in cui cerchiamo di mettere insieme 4-5 argomenti, temi fondamentali del tour appena concluso, che possano restare come archivio o memoria per chi un giorno dovesse aver voglia di recuperare il tour del 2016 e andare a vedere ma cosa è successo, a parte il Mont Ventoux con la maglia gialla che corre a piedi. E sono successe delle cose nonostante tutto, e sì, stiamo provando a metterle insieme. Vi facciamo ovviamente sapere quando sarà pronto e dove e come potrete prenderlo. Bene, vi bombarderemo di informazioni al riguardo sul nostro sito, sui nostri social e anche al citofono se è il caso. A questo punto direi che è il caso anche di andare verso la conclusione di questo tour anche per Bidon, e lasciateci ringraziare tutti quelli che hanno permesso di fare tutto quello che abbiamo fatto. In particolare io parto per vicinanza, perché qui vicino dall'altra parte dell'internet parto da Leonardo Piccione, e vi garantisco che si è fatto un mazzo come nessun altro in questo mese. Ma no, dai. E poi gli altri nostri collaboratori abituali, Riccardo Spinelli, Francesco Bozzi, Eugenio D'Alessio, che si muove in silenzio ma c'è sempre, e Umberto Massa, che ha fatto il nostro nuovo sito che pian piano partirà, ovviamente Dino Zandegu, nostro cantore delle sigle di apertura e di chiusura di Radio Bidon, e Angelo Trofa, che tra poco reintrodurremo. E poi fammi dire qualche altra cosa velocemente, nel senso che dobbiamo ringraziare chi ci ha seguiti, soprattutto perché noi siamo cresciuti molto durante questo Tour de France a livello anche di seguito da parte di chi ci vuole leggere, ascoltare su internet, su Facebook, sul sito. Ci fa piacere, nel senso che ci piace che quello che noi proponiamo abbia un seguito in qualche modo. Noi stiamo cercando di proporre un tipo di racconto diverso che non molti fanno in questo momento, almeno in Italia, del ciclismo. Forse non è il momento ideale per proporre questo tipo di approccio, nel senso che il ciclismo, per quello che abbiamo detto prima, in questo momento non offre tutti questi spunti a livello letterario, epico o narrativo, però ci stiamo provando e vi ringraziamo perché vi piace, perché ci chiedete di continuare. Proveremo a farlo finché avremo tempo ed energie. Soprattutto perdonateci qualche ingenuità, perdonateci la artigianalità soprattutto del podcast, che noi facciamo con dei mezzi davvero primordiali, e quindi grazie per questo. Ecco, ce n'è un altro ancora di ringraziamento da fare rispetto proprio a questo podcast, che è artigianale, sbilenco e lento come solo noi sappiamo essere lenti, anche un po' lungo forse stasera. È un ringraziamento in incognito perché loro non sanno di aver dato un contributo a questa trasmissione, ma sono l'Art Ensemble of Chicago e Brigitte Fontaine, il cui pezzo Come alla Radio, tratto da un disco eccezionale, è stato il sottofondo di tutte le nostre trasmissioni. È davvero un grandissimo, io non lo conoscevo prima e devo riconoscere la mia totale ignoranza, ma credo che sia una delle più belle scoperte musicali che ho fatto negli ultimi tempi. E allora concludiamo in bellezza, grazie a tutti per averci tenuto compagnia in questo Tour de France, e Leo, dici tu come concludiamo. Concludiamo con Angelo Trofa, che ha preparato un testo, un brano anche oggi per noi. Prima del brano ringraziamolo per quello che ha fatto notte dopo notte durante il tour. La sua rubrica notturno è stata un altro piccolo successo della nostra pagina, è cresciuta anch'essa strada facendo, è una proposta nuova, diversa, strana, che siamo contenti di aver fatto, e quindi grazie a lui. Adesso ci salutiamo con un brano tratto da un articolo di Vittorio Varale sulla Stampa del 1938, alla vigilia dell'ultima tappa del primo Tour de France vinto da Gino Bartali. Vittorio Varale, giornalista, incontra Maurice Garin, primo vincitore storico del primo Tour de France, il vincitore del primo Tour de France. Ascoltiamo questo scambio di battute molto bello e ideale per concludere questo percorso e aspettare che ne inizi un altro. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao! Le nostre biciclette pesavano 15 kg. Avevano un solo freno sulla ruota davanti, niente ruota libera. La moltiplica della mia macchina sviluppava 5 metri e 85, sempre quella, per pianura, salite, discese. Quando avevamo fame, ci fermavamo nei bistrò a mangiare quello che trovavamo di pronto. Portavamo a tracolla la scorta di camere d'aria. Quando un sasso o un chiodo ci metteva a terra, mettevamo un tubo nuovo. E quando non ne avevamo più, ci fermavamo a rappezzarle. Si asciuga i baffi. Col dito fa segno a una vecchia stampa ingiallita inchiodata al muro. Sono io all'arrivo del primo Tour de France. E il signore con la tuba in redingote che mi stringe la mano è il famoso prefetto di Parigi, Monsieur Le Pen. Quella vittoria mi rapportò 12.000 franchi, ma la Parigi-Brest e ritorno mi aveva rapportato di più, 20.000 franchi d'oro. Sarà stato perché era l'ultima tappa e ci allietava il pensiero che quella vita da zingari stesse per finire. O perché eravamo felici che a vincere il tour fosse finalmente un italiano. Ma ho idea che c'entrasse la sua parte in tanta allegria il vinello bianco di Monsieur Garin. Certo è che quando siamo risaliti in macchina eravamo euforici. Ed è stato un gran bel viaggio verso Parigi. Ci siamo perfino messi a cantare. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia a pois, poi chi vince il Tour nella storia entrerà. Olè!